Siamo in collegamento con Andrea Paco Mariani di OpenDBB e regista di The Harvest. Intanto ti saluto, ciao, buongiorno. Ciao a tutte e tutti. E continuiamo quindi a parlare del decreto Bonisoli, il cosiddetto decreto anti-Netflix. Però, secondo quanto avete dichiarato voi come OpenDBB, in realtà non è solo contro Netflix. Diciamo che ci sono dei grossi rischi anche e soprattutto per gli altri, anche perché poi lungi da noi essere quelli che vogliono difendere Netflix, di cui non ce n'è assolutamente bisogno e si difende benissimo da sola, ma proprio in virtù di questo chiaramente le piccole produzioni e distribuzioni indipendenti hanno molto meno strumenti a disposizione. E un po' l'impressione è quella che il decreto da una parte, insomma i suoi difensori, prima tra tutti la Borgonzoni, dicono che in qualche modo regolamenta quello che è già una prassi di mercato e inserendo anche delle scappatoie per i produttori più piccoli, però in realtà dall'altra parte sembra che queste scappatoie le avessero già trovate i produttori più piccoli nel caso per esempio di OpenDDB. Sì, esatto, fermo restando che siamo tutti curiosi di vedere concretamente poi cosa viene scritto all'interno di questo decreto, perché ovviamente per ora soprattutto ci basiamo anche sulle dichiarazioni fatte eccetera. Da questo punto di vista, come hai detto bene, esiste già una prassi che sicuramente il caso del film su Stefano Cucchi ha smosso e ha messo in discussione, ma teniamo anche presente che perlomeno in Italia ora è un caso isolato. Che gli strumenti e le modalità stiano cambiando, questo è abbastanza evidente a tutti, e tra l'altro fa abbastanza strano che una componente del governo che negli anni ha sempre sbandierato e dichiarato un suo certo posizionamento rispetto al web, alla libertà del web, alle piattaforme e quant'altro, esca fuori con un ragionamento di questo tipo. Dopodiché, proprio perché una prassi esiste già e spesso questa prassi è di fatto un equilibrio tra diverse realtà del segmento distributivo, quindi le sale da un lato, le piattaforme dall'altro e quant'altro, non si vede la ragione per cui questa cosa debba diventare unilaterale per tutti. Che ci sia, come posso dire, un rischio che dei grossi aggregatori globali come Netflix, però che ricordiamoci essere globali tra l'altro, quindi anche tutto il discorso sui diritti d'autore geograficamente territorializzati su scala nazionale è un concetto che comincia a essere molto scivoloso in questi anni, come potete intuire. Il fatto che ci siano dei rischi rispetto a questi macro aggregati è abbastanza evidente a tutti, e ripeto, la nostra l'ultima cosa che vogliamo fare è difendere una piattaforma come Netflix, che fa del ragionamento del sottocosto il suo cuore centrale, così come fanno altri aggregati di questo tipo in altri settori non cinematografici, non multimediali. Dopodiché la cosa folle, secondo me, è proprio l'idea che questa debba diventare una norma applicabile su qualsiasi esperimento. Ti faccio anche un altro esempio: che le sale oggi abbiano bisogno di nuovi strumenti, non solo per sopravvivere in certi casi, ma anche per evolvere anche il pubblico, la possibilità di accedere alle sale, anche questo è altrettanto evidente. Però proprio perché siamo in una fase di forte trasformazione dove gli esperimenti di questo tipo sono fondamentali, non si capisce perché si voglia decidere di tagliare tutto quanto e di uniformare la cosa in un momento dove è impossibile uniformarla. E infatti un po' proprio quello sembra il problema, cioè il fatto di riunire tutto insieme, le grandi produzioni con quelle più piccole e indipendenti, che poi appunto c'è questo tentativo di dare una scappatoia, nel senso che poi questo limite di 105 giorni viene ridotto nel caso di film più piccoli, però viene ridotto sulla base di una dichiarazione pregressa del fatto che saranno piccoli, diciamo, cioè se ci si impegna a riprodurli per dire solo 3 giorni e solo in 3 giorni feriali. Quindi in qualche modo forse sancisce più nettamente la differenza tra piccole produzioni e grande produzione, nel senso che se vuoi essere piccola produzione poi lo resti, non c'è la possibilità che un film faccia come ha fatto il tuo, per dire, che poi ha vinto molti premi anche all'estero. Esattamente l'esempio che hai fatto è calzante, a prescindere dal fatto che sia stato un nostro esperimento distributivo The Harvest. È ovvio che tutte le realtà piccole, indipendenti ed emergenti, film per film, cerchino di costruire delle reti più ampie, anche e soprattutto attraverso questi esperimenti. Quindi l'idea che ci sia già una distinzione all'accesso che determina in automatico e in anticipo se un film avrà o meno un'ampia distribuzione è una delle tante follie che sta dietro a questo ragionamento, che però, ripeto, però rimane praticamente un ragionamento, perché comunque ci sono tanti aspetti che non sono, secondo me, ancora né chiari né chiariti. Anche per esempio, se io immagino e ragiono un po' su quello che è stata l'esperienza della nostra piattaforma on demand, OpenDDDB appunto. Noi stessi non ragioniamo in automatico sul fatto che ci sia la contemporaneità del theatrical di sala e dell'on demand video. Ci sono film cui abbiamo suggerito all'autore e all'autrice di fare questo percorso, come fu il caso di Binkset un anno e mezzo fa, e fu una scelta vincente proprio perché quel tipo di film specifico aveva bisogno di essere veicolato il più possibile contemporaneamente con tutti gli strumenti di diffusione, che sia una sala, che sia un centro sociale, che sia una libreria, che sia un sito web, una piattaforma. Altri invece, come per esempio è lo stesso The Harvest è uscito 10-11 mesi fa ormai, e noi lanceremo l'on demand solo il mese prossimo, per cui film per film, a seconda della tipologia del film, dei temi che va a toccare, di tutta un'altra serie di ragionamenti che legittimamente una produzione può e deve essere lasciata in pace nel poter fare liberamente, caso per caso bisogna studiare quale sia la strategia migliore. Prendiamo anche di nuovo il caso per esempio del film Sulla mia pelle. È chiaro che un film del genere ha avuto quei numeri soprattutto per la storia che raccontava, perché evidentemente ha colpito nel segno la necessità che si continuasse anche con una forma più cinematografica a raccontare la vicenda di Stefano Cucchi. I numeri che ha fatto, a mio avviso, li ha fatti proprio in virtù della storia che raccontava e del fatto che questa storia sia stata contemporaneamente veicolata in più modi e in più forme, al di là del fatto che sia stata Netflix o meno, non è questo il punto. Quindi secondo me il ragionamento di buon senso è non solo non distinguere in automatico pericolosamente ciò che è indipendente e ciò che non lo è, perché è un precedente molto pericoloso, ma anche all'interno della stessa, diciamo, area di riferimento, che può essere il cinema più mainstream o quello più indipendente, caso per caso bisogna fare un ragionamento ben specifico. Ed è questa, proprio questa necessità di voler assolutamente rendere tutto uguale, che poi in realtà rischia di rendere tutto drammaticamente differenziato in due macro categorie. E infatti ti volevo fare un'ultima domanda, perché una cosa che forse solo tu da interno ci puoi dire, nel senso che io non saprei, è se questo presupposto secondo cui in questo momento vige una regola di mercato, che tolto il caso limite, il caso scandalo di Sulla mia pelle, solitamente viene rispettata, ovvero del limite dei 105 giorni, che quindi fondamentalmente questa legge sta solo formalizzando, perché questo è quello che dicono i suoi promotori. E invece mi sembra che tu stessi citando un sacco di casi in cui in realtà non è andata così, quindi ti volevo chiedere se effettivamente questa prassi esiste ed è così rigida al punto da non cambiare niente se viene inserita una legge, o se invece non è così rigida come sta sembrando in questi giorni. Ma lo è secondo me proprio all'interno del panorama delle produzioni medio grandi e del mainstream, perché ovviamente sono ancora ancorate a delle logiche classiche, e ripeto, ci tengo a ribadire il fatto, noi siamo perfettamente consapevoli delle difficoltà che oggi per esempio molte sale d'esse stanno attraversando, quindi non è che il nostro ragionamento non voglia tenere presente anche questo aspetto, che è sicuramente un altro aspetto di cui tenere presente. Però, ripeto, dall'altra parte c'è una vastissima ed eterogenea casistica di realtà indipendenti che negli ultimi 5-10 anni hanno cominciato a sperimentare delle nuove pratiche, ovviamente anche grazie agli strumenti digitali che oggi abbiamo a disposizione, e l'idea che non solo non interessi cogliere questo cambiamento positivamente, invece di dover aspettare ogni volta il grosso aggregatore globale e transnazionale, ma che questa cosa sia considerata invece un aspetto interessante e florido di quello che può essere un cambiamento che spesso e volentieri sono proprio le esperienze emergenti indipendenti a portare alla luce, perché sono le prime che hanno, prima ancora di tutte le altre, la necessità di sperimentare delle nuove strade. Anche perché io una cosa che ribadisco sempre, anche quando per esempio si parla di crowdfunding, quindi sulla parte più produttiva, diciamo, del ragionamento, se non c'era la necessità di trovare nuove strade non nessuno si sarebbe posto il problema. Evidentemente se altre realtà indipendenti da anni si pongono il problema e sperimentano sulla propria pelle una serie di esperienze nuove e di strategie nuove, forse una ragione c'è. A mio avviso è molto grave che questa cosa non venga minimamente colta, perché di nuovo spesso in questi casi quando si tenta di generalizzare poi alla fine chi paga non sono sicuramente gli aggregatori grossi, lo stesso Netflix troverà sicuramente mille altri modi per capitalizzare comunque la propria strategia, questo è inevitabile. Va bene, io ti ringrazio e ti saluto insomma per ora, poi ci aggiorneremo. faremo quando sapremo meglio che cosa dice effettivamente questo decreto. Siamo tutti speranzosi di capirlo, perché come tanti altri aspetti che riguardano altre tematiche e problematicità, mi sembra che ultimamente si parli molto e si arrivi poco alla sostanza, quindi anche in questo caso si sono fatte delle dichiarazioni, in alcuni casi anche abbastanza contraddittorie, perché poi se vai a vedere in dettaglio le cose che sono state per ora dette, non ci sono comunque anche delle incoerenze di fondo, al di là delle opinioni di cui stiamo parlando ora, per cui siamo proprio tutti in attesa di capire concretamente di cosa stiamo parlando, perché è ancora tutto molto vago. Va bene, io ti ringrazio di nuovo e ti saluto, ciao. Grazie a voi, a presto.